someone. Ciao. Pronto, di fumetti? Ciao, di fumetti. Oh, I need you. Scusa? I want you. Ok, sei pronta, signorina? Sì. Hai orecchi? Sì. Hai orecchi for di fumetti? Sì. Allora, let's go. Nobody knows it. We need to show it. Nobody knows.